Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Luca Ricciardi, Aurora Palandrani e Matteo Angelici dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per parlare dell'Ape Rossa Anarchive. A Piazzale della Centrale Montemartini e al Teatro Garbatella dal 15 al 20 ottobre 2020. Ben trovati. Grazie. Ciao. Questa iniziativa, com'è nata e come funzionerà? Beh, intanto l'Ape Rossa, forse qualcuno lo sa, è un'iniziativa che l'archivio, la Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico porta avanti da 7 anni in varie forme. È un'ape viaggio allestita per essere un cinemobile e organizzare arene all'aperto di cinema e spettacoli dal vivo. Quest'anno, insomma, è un anno particolare, quindi l'ape sarà non così mobile. Però abbiamo anche deciso di concentrare una gran parte dell'attività che la Fondazione porta avanti da diversi anni dedicate al riuso del cinema d'archivio in una manifestazione di 6 giorni che in qualche modo affronta vari approcci e tematiche che la Fondazione ormai sta cercando appunto di portare avanti, su cui si sta concentrando, in particolare il riuso creativo del cinema d'archivio che facciamo con il premio Zavattini, che è un premio che esiste da 5 anni, il riuso sperimentale attraverso la sonorizzazione dell'archivio che abbiamo fatto con delle residenze artistiche che si chiamano Suoni e Visioni, che hanno prodotto delle opere molto interessanti, e poi c'è una parte dedicata alle live performance in cui video artisti e musicisti si cimentano proprio dal vivo in delle serate live di incontro tra musica e immagini d'archivio e non in questo caso. Questo è un po', diciamo, il cuore dell'iniziativa, che poi è arricchita anche da altre attività collaterali invece qui alla Centrale Montemartini, mentre le prime al Teatro Garbatella. Ecco, come si articoleranno le giornate nei due spazi? Noi inizieremo dal primo pomeriggio, diciamo. L'archivio sarà operativo più o meno dalle 15, dove proprio nel piazzale della Centrale, proprio a casa nostra, ci sarà un gazebo dove inizieremo con quello che abbiamo chiamato Family Archive. È un progetto di raccolta di film di famiglia dedicato alle famiglie dell'Occidente. Quello che vogliamo fare è cercare di recuperare, conservare e restituire poi questo materiale tanto più importante e prezioso come quello del cinema familiare. Proseguiremo poi sempre qui alla Centrale con le visite guidate, un po' la forma della grossa classica che abbiamo ormai da tanti anni, che avete già visto durante le edizioni dell'estate romana. Proseguiamo quindi con le visite guidate al museo, questo bellissimo museo della Centrale Montemartini, e la partenza del Walkabout di Carlo Infante di Urban Experience, che è questo bellissimo momento di riappropriazione del territorio, esplorazione del quartiere, quindi proprio il momento in cui ci radichiamo sul nostro territorio. Questo ci tenevamo a mantenere anche in questa forma, più diciamo a distanza, ci tenevamo a mantenere la nostra struttura, diciamo, classica di Ape Rossa. Teatro Garbatella, come diceva Luca, per gli spettacoli serali. Mi piacerebbe approfondire questo elemento che mi pare centrale di questa sorta di laboratorio di istruzioni per il riuso. Partiamo da qualche tempo fa. Gli archivi audiovisivi e in generale il cinema documentario hanno sempre concepito il materiale d'archivio come un documento storico. Quindi abbiamo assistito negli anni a un uso del materiale d'archivio come fonte, no? Fonte di fatti e di eventi. Negli ultimi anni in archivio abbiamo cominciato a capire, forse più tardi di altri, perché poi ovviamente nell'arte contemporanea insomma, già certi confini erano stati superati, abbiamo cominciato a capire che questo materiale è un materiale vivo, è un materiale che può essere risignificato, come diciamo spesso, e che quindi può essere decontestualizzato e ricontestualizzato in contesti narrativi nuovi. Questa pratica si apre, diciamo, a possibilità infinite in tanti campi, quello stesso del cinema di narrazione, quello sperimentale, quello musicale, quello della videoarte. E quindi, diciamo, una delle attività che abbiamo avviato tempo fa è proprio quella del premio Zavattini, che è basata proprio sul riuso creativo del cinema d'archivio, e poi abbiamo avviato una serie di altri percorsi, sia di residenze artistiche, sia di laboratori, produzioni vere e proprie, alcune di queste potranno essere viste nei giorni della manifestazione, basata appunto sull'uso creativo del cinema d'archivio. La cosa che ci interessa sottolineare è che riutilizzare l'archivio cinematografico non significa utilizzarlo senza mantenere in qualche modo il senso del suo, forse il riso più interessante, e ne abbiamo tante prove in queste opere che mostreremo in questi giorni, è un riuso che allo stesso tempo mostra sia il segno del documento originario sia il segno del nuovo contesto in cui è inserito, che è, secondo noi, forse ecco, riprendendo alcuni modelli o alcune teorie un po' del passato ma ancora vive, potremmo dire che è un détournement del cinema d'archivio, in cui appunto il significato vecchio e quello nuovo coesistono. Molte delle opere che presentiamo in questa manifestazione hanno proprio questo valore e sono stupefacenti, nel senso proprio che generano stupore proprio per questo. In chiusura, per tutte le informazioni e i dettagli, ci date i riferimenti internet? Innanzitutto, le informazioni si possono reperire nel nostro sito, che è www.amod.it, e si possono comunque sia chiedere informazioni anche per mail a eventi@amod.it, e il numero di telefono fisso è 06 57 30 5447. Veniamo a sottolineare che tutte le iniziative, proprio per rispettare le norme anti-Covid, sono su prenotazione direi obbligatoria, specialmente le visite guidate, quindi insomma siamo molto attenti a questa cosa. Vi aspettiamo dal 15 al 20 ottobre, a partire dalle 15 fino alle 23. La Perossa Anarchive, Centrale Montemartini e Teatro Garbatella, un saluto e un ringraziamento a Luca Ricciardi, Aurora Palandrani e Matteo Angelici dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima! Grazie mille, ciao, ciao, grazie! Claudio Guerrieri, curatore della 7ª edizione del Live Cinema Festival a Roma, alla Casa dell'Architettura all'Acquario Romano dal 9 al 16 ottobre 2020. Claudio, ben trovato. Ben trovati a voi tutti, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Raccontiamo cos'è il Live Cinema Festival. A me piace definirlo così: vivi suoni, ascolta l'immagine, che è il nostro claim, che sta a sottolineare un po', in modo anche un po' provocatorio, l'approccio sinestetico delle performance audio-video che presenta in edizione, e fa capire che nelle audio-visual performing arts le due componenti, suono e immagini, si equivalgono e l'una non prevalica sull'altra. Quindi si tratta di un festival di 8 giorni dove saranno 4 eventi, serate con artisti internazionali invitati, e una sezione nuova, altre 4 serate, dedicata un po' agli artisti locali selezionati da un open call che abbiamo fatto quest'anno, una novità. Poi altri contenuti, screenings che hanno anticipato un po' l'edizione, in altri spazi come l'ex cartiera, l'auditorium, Parco della Musica, Fusolab in periferia e lo stesso Acquario Romano. Poi in più i workshop in modalità virtuale quest'anno, curati da Algoritmi, che sono un gruppo di Torino di ragazzi che si occupano di realtà virtuali e altre cose molto interessanti. Cosa aveva portato alla nascita del festival? Beh, il festival è nato nel 2014 in un piccolo teatro appunto in periferia al Quasticciolo, ed è diventato in questi anni uno dei più apprezzati eventi internazionali dedicati all'audio-video performativo. Facciamo parte di un network internazionale appunto che coinvolge circa 60 partner in tutto il mondo, e è una manifestazione che porta nella capitale ormai le performance di audio-visual, dove sono immagini, spazio per questo pubblico che costituiscono un unicum indivisibile. Beh, l'idea è nata perché appunto da circa 20 anni, io e Gianluca Del Gobbo, insieme, che facciamo queste cose da circa 20 anni, abbiamo iniziato un po' al Lucise, che se lo ricorda, con le immagini mixate in tempo reale, facevamo DJ, da lì nasce tutto. Come saranno strutturate le giornate? 4 saranno le serate internazionali, cioè il 9, il 10 e il 15 e il 16, e le altre 4, da domenica 11 a mercoledì e 14 le serate in live cinema Made in Italy con gli artisti della Call selezionati locali. All'inizio ogni serata partirà con un simposio dal titolo Cos'è la sinestesia, dove ogni sera invitiamo artisti, curatori e autori a trattare di questo tema in relazione appunto al legame che esiste tra suono e immagine. Poi le performance saranno anteceduti da una video installazione di Sabrina Raté, un'artista canadese, e ogni sera ci saranno due performance a sera. Posso elencare da 10 paesi internazionali, sono Marco Monfardini con Detect il 10, Tarek Barry con Lea Fabricant il 9, il 10 Hype Kid e Pavel Karafiat dalla Via Ceca con Amélie Duchoff, tedesca, il 15 un film francese di Ivan Cotte e Pierre Lafranchère con Herbstadt, che è un lavoro su Google Earth molto interessante, gli ungheresi Zagar Avu Experience con Mirror Mind, chiudiamo poi il 16 con Patrick Lechner, con Ditograph, austriaco lui, e Maotic, che è una delle, appunto, anche uno dei nomi più appunto, di questa edizione, con la nuova versione di Iron. Tutte sono premiere o lavori presentati per la prima volta in Italia. Queste quattro performance internazionali, bisogna dirlo perché quest'anno gli ingressi saranno a numero molto limitato, e queste quattro performance, diciamo queste quattro serate con gli artisti internazionali saranno a pagamento con un link sempre con prenotazione online, mentre le altre quattro sono a ingresso gratuito da domenica 11 a mercoledì 14, però sempre seguendo i link sul sito www.livecinemafestival.com per prenotarsi. Tutto il programma è visibile sul sito internet del festival? Sul sito internet che ho appena citato e sulle varie pagine social che abbiamo, sempre Live Cinema Festival, Instagram e Facebook. Settima edizione Live Cinema Festival a Roma, la Casa dell'Architettura all'Acquario Romano, dal 9 al 16 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento al curatore Claudio Guerrieri. Un abbraccio, in bocca al lupo, alla prossima! Grazie! Ciao, grazie. Con l'archeologo Andrea Angelucci per presentare la serie TV Art Rider su Rai 5 in 6 puntate da venerdì 11 settembre 2020. Andrea, ben trovato. Eccomi, ciao, grazie per avermi ospitato. Come parleresti di questo lavoro? Ma questo è, ecco, un lavoro che ha come obiettivo quello di portare alla luce, come fa di solito un archeologo, ma chiaramente con l'attenzione mediatica, un patrimonio storico, artistico, archeologico poco conosciuto e poco anche valutato. Ecco, quindi l'obiettivo centrale di tutta la questione è questa, di dare attenzione a questo patrimonio che chiede un po' aiuto, come se dice, ehi ragazzi, ci sono anch'io. Com'è partito tutto? Dalla mia attitudine proprio di fare questo tipo di viaggio un po' più lento rispetto al solito, un po' più mirato a questi luoghi poco conosciuti. A me piace molto anche andare nella natura, faccio alpinismo, scalo, quindi molto spesso mi capita di scoprire, non so, magari in una valle o una zona un po' più appartata dai classici percorsi turistici, qualche patrimonio artistico appunto nascosto. Ed è un peccato perché chiaramente è importante poi sensibilizzare, no, all'opinione pubblica sul fatto che siamo veramente circondati da queste bellezze, quindi è nata l'idea di fare qualcosa che ponga attenzione proprio su questo patrimonio, però da raggiungere in maniera magari a volte anche un po' avventurosa, che rispecchia un po' le mie corde, ecco. Come hai messo in moto il progetto poi? È stata la produzione, la GIA, che mi ha contattato perché ha visto il mio modo di viaggiare, ha creduto sul fatto che questa modalità potesse diventare poi qualcosa da portare nelle case dei telespettatori, tanto è vero appunto proprio il nome Art Rider che sta a significare proprio questo, come i riders adesso li portano a casa magari il cibo, la pizza o l'hamburger, che adesso poi in questi tempi vanno abbastanza di moda, l'Art Rider ti porta questo patrimonio particolare, sconosciuto, lo porta direttamente a casa mediante appunto le immagini televisive. Quali saranno e quanti i luoghi visitati? saranno molti. Le puntate sono 6 e ogni puntata noi visitiamo media di 6, 7, 8 location diverse, quindi in realtà i posti sono molti. Poi da puntata a puntata questa cosa un po' cambia. Abbiamo girato varie regioni d'Italia, quelle intorno a Roma o al sud Italia, per esempio in Campania, o poi siamo andati anche in Sardegna. Quindi è in realtà una modalità che può essere tenuta in ogni regione d'Italia e non solo. Però ecco, in questo caso abbiamo girato queste regioni, soprattutto centro e sud Italia. Hai scoperto anche qualcosa? Sì, sì, facendo anche questo viaggio, come tutti i viaggi, scopri sempre qualcosa. Uno parte sempre con l'idea che il viaggio sarà di un certo tipo, ma sempre poi c'è sempre qualcosa in più che viene scoperto. Ho scoperto per esempio delle tradizioni che non conoscevo, che comunque non conoscevo così approfonditamente. Per esempio nella puntata in Sardegna ho incontrato una donna che custodisce una delle più antiche tradizioni tessili del Mediterraneo, la tessitura del bisso, che è questa seta di mare chiamata così, che viene presa da un mollusco, ed è una tecnica antichissima e per la prima volta mi è capitato proprio di vedere il procedimento. Come è valorizzato il nostro patrimonio archeologico? Questa è una bella domanda. Il nostro patrimonio archeologico è valorizzato non proprio nella maniera giusta, questo perché in realtà è un problema, si dice sempre in ambito archeologico. Noi abbiamo un patrimonio gigantesco, più grande di chiunque altro, quindi è molto difficile poter conservare e gestire tutto insieme. Diciamo ecco che ci sono i classici siti famosissimi, posso fare che ne so, un esempio magari proprio sulla puntata Campania. Ad esempio chi va in Campania va a visitare sicuramente Pompei e forse Ercolano, dimenticandosi che lì vicino a Oplonti c'è una villa stupenda che infatti noi proprio visiteremo. Ecco, quindi diciamo che conserviamo bene il patrimonio, quello più noto, ma c'è bisogno di intervenire anche per quello meno noto, perché ripeto è un patrimonio gigantesco che appunto merita anch'esso di essere preservato e soprattutto di farlo conoscere al pubblico, perché se non c'è conoscenza da parte del pubblico non c'è poi conservazione. Tra l'altro garantirebbe anche posti di lavoro. Questo sì, noi diciamo, si dice sempre, no, che in Italia il nostro petrolio è la cultura, è l'arte, è la bellezza. Questo è assolutamente vero, ma bisogna essere capaci appunto di conservarlo e non è facile, perché chiaramente ci vogliono anche tanti soldi, parliamo chiaro, ma soprattutto ci vuole consapevolezza da parte nostra e bisogna passare questa assuefazione che abbiamo noi, cioè noi siamo assuefatti, non nasciamo in un contesto pieno di bellezza e quindi la diamo per scontata. Passiamo davanti ai monumenti tutti i giorni e non ce ne rendiamo conto, mentre magari se lo fa qualcuno che viene dagli Stati Uniti, da un altro paese, rimane a bocca aperta. Ecco, noi dobbiamo recuperare questa consapevolezza che stiamo effettivamente in un contesto straordinario, che siamo circondati da questi patrimoni. Come sarà il formato delle singole puntate? Che durata avranno? Cioè, quanto spazio sarà dedicato ad ogni luogo? Le puntate hanno una durata complessiva di 52 minuti, quindi è un bel po', insomma, a livello televisivo. Ogni luogo chiaramente dipende dal contesto, avrà più attenzione rispetto a un altro, nel senso ci sono dei luoghi in cui in 5 minuti riesci comunque a dare una panoramica generale di quello che è il sito, esaustiva. Sono luoghi, per esempio quello che si vede stasera, che è il monastero del Sacro Speco di San Benedetto a Subiaco, che è un complesso gigantesco, pieno di dettagli, che appunto hanno bisogno di qualcosa in più, quindi si passerà magari a 10 minuti, un quarto d'ora a sito in quel caso. Qual è l'orario? 21:15, tutti i venerdì, per 6 venerdì consecutivi a partire appunto dall'11 settembre. Art Rider su Rai 5, un saluto e un ringraziamento all'archeologo Andrea Angelucci. Sarai tu a condurre, giusto? Esattamente, sono io il conduttore, esattamente. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Credi, grazie mille. Con Massimo Gazzè, presidente del Network Arene di Roma, che ci parlerà di Arena Farnesina, il gusto della cultura, la cultura del gusto, al Villaggio della Cultura, al Lungotevere Diaz a Roma, dal 21 agosto al 30 ottobre 2020. Massimo, ben trovato. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Presentiamo questo progetto di Arena. È un'estate particolare questa, lo sappiamo tutti. Noi comunque abbiamo raccolto la lodevole iniziativa del municipio Roma 15, che ha voluto appunto, malgrado i tempi, dedicare uno spazio alla cultura partecipata. Iniziamo appunto il 21 agosto e abbiamo creato un vero e proprio villaggio dove cinema, teatro, musica, arte, happening si contaminano tra loro, quindi è l'arte che si contamina, ma non le persone, perché ovviamente è stata dedicata una grande attenzione per creare uno spazio adatto a mantenere le distanze pur partecipando tutti insieme. Non solo appunto il gusto della cultura, ma anche la cultura del gusto, perché abbiamo un ristorante all'aperto con Andy Luotto, che è uno chef, ma sicuramente appartiene anche a pieno titolo al mondo dello spettacolo. Sarà tutti i giorni. Quanti sono i film presentati? Abbiamo una programmazione molto ricca, saranno quasi 100 i film presentati. In realtà apriamo il pomeriggio alle 18, abbiamo delle attività ludiche, dei laboratori, poi avremo anche tutta una serie di incontri letterari, saranno più di 100 gli autori che presenteranno i loro libri. Per quanto riguarda il cinema, la manifestazione è piuttosto articolata. Inizieremo con la rassegna Tutta Musica, in cui ripercorriamo i grandi classici che hanno fatto la storia del cinema. Inauguriamo con Jesus Christ Superstar, ma poi avremo i Blues Brothers, Rocky Horror Picture Show, il primo sabato abbiamo Saturday Night Fever e via discorrendo. Poi Notti da Oscar, praticamente ripercorriamo la storia dalla Grande Bellezza, poi a 20 anni dal Gladiatore. In quest'ambito faremo anche un omaggio a Ennio Morricone con i suoi film Untouchable, che ha vinto un Oscar, e Uccellacci Uccellini di Pierpaolo Pasolini. Poi da settembre ospitiamo dei veri e propri festival. Dal 1 settembre abbiamo Women in Action, e sono tutte pellicole che servono per stimolare l'analisi, il dibattito, la riflessione sulle politiche di genere e l'universo creativo femminile. Poi dal 14 settembre invece ospitiamo lo Human Rights Film Festival, che è un format già sperimentato con successo a Barcellona, a Londra e a New York, in cui appunto i film stimolano la riflessione su tutte le tematiche dedicate ai diritti umani. E poi a ottobre abbiamo un festival nel festival, perché dal 1 all'11 ottobre ospiteremo la prima edizione del Festival del Cinema e del Giornalismo Enogastronomico. Saranno 11 giorni molto intensi, perché ogni sera ci sarà un vero e proprio cooking show. Andy Luotto avrà ospite guest star, dei chef celebri rinomati, e ognuno di loro in quella serata proporrà un suo piatto tipico. Poi abbiamo fatto un accordo con l'ANCI Lazio, e quindi ogni sera ospiteremo un sindaco con i suoi produttori delle città del Lazio che hanno eccellenze nella produzione agroalimentare della nostra regione. E ovviamente i film saranno tutti film dedicati al mondo dell'enogastronomia, e quindi non poteva mancare Sideways, che è stato uno dei primi, fino a Un'ottima annata, La moglie del cuoco. Insomma, saranno 11 giorni molto intensi all'insegna del cibo e del vino di qualità. Sarà tutto a ingresso gratuito con prenotazione? Allora, la prenotazione è sempre obbligatoria. Poi ci sono moltissime giornate ad ingresso gratuito, non solo quella dell'inaugurazione. Ecco, in inaugurazione appunto avremo un concerto con Tony Formichella, che è sicuramente uno dei più straordinari protagonisti del background del jazz capitolino sin dagli anni 70. È anche l'autore della colonna sonora di Maledetto il giorno che ti ho incontrato, di Carlo Verdone. Poi avremo uno spettacolo con Lallo Circosta per la regia di Greg. E infine proietteremo Jesus Christ Superstar, questo il giorno di inaugurazione, il 21 agosto. Tutto il programma si trova su arenafarnesina.it e abbiamo molte giornate gratuite, e in particolare tutti i film della seconda programmazione, perché ricordo che siamo aperti fino alle 2 di notte, quindi i film che iniziano dopo le 11 sono sempre gratuiti, mentre i film alle 9.15 sono a pagamento, 5 euro. Il resto è tutto gratuito. L'accesso è libero, e però la prenotazione è obbligatoria, anche questo fare su arenafarnesina.it, e ovviamente per il rispetto delle norme sul Covid bisogna fornire nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email, e quindi all'accesso sarà rilevata la temperatura, come di legge, ci si dovrà dare una rinfrescatina alle mani con il gel rinfrescante, ma ci siamo organizzati per non far perdere molto tempo, chiunque ha prenotato online entra immediatamente, insomma. E anche all'interno tutti i tavoli sono numerati, distanziati, anche le zone che hanno i divani, li posti a sedere al cinema, e l'unica area dove è obbligatorio indossare la mascherina è quella degli stand. sono quasi tutti operatori del quindicesimo municipio, quindi abbiamo la Romana Tecnica Vitorina, che è una storica società sportiva, il Museo Crocetti, che sta sulla Via Cassia, è un museo molto bello, molto interessante, che va sicuramente valorizzato. Poi abbiamo degli artisti, delle case di moda, sempre di fashion del municipio, e poi operatori, diciamo, sempre del settore. E fuori dal nostro municipio ospitiamo la Codacons, che quindi sarà un'opportunità per incontrare i cittadini di questa associazione nota che tutela i nostri diritti. Arena Farnesina, al Villaggio della Cultura, a Lungotevere Diaz a Roma, dal 21 agosto al 30 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento a Massimo Gazzè, presidente del Network Arene di Roma. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie. Grazie a voi e vi aspettiamo. Non vi aspetto da solo, ci sarà sempre anche Andy. Arrivederci. Con Chiara Manni di ACMA, Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese, per presentare DocuD, concorso di cinema documentario a Pescara, Museo Vittoria Colonna, dal 10 settembre al 17 ottobre 2020. Chiara, ben trovata. Grazie altrettanto a te, Federico. Sì, riprendiamo dopo questa interruzione. Noi dovevamo fare fino a maggio tutti 4 mesi, però dopo le 3 proiezioni iniziali, ovviamente, come tutti, abbiamo interrotto. Quindi ci fa piacere adesso riprendere. Giovedì abbiamo la prima proiezione. Ovviamente i documentari sono quelli in concorso, quindi riprendono coi titoli che già avevamo anticipato a suo tempo. Giovedì c'è questo Vulnerabile bellezza di Emanuele Mandolesi con il regista in sala. Ci fa piacere che lui possa intervenire e quindi avremo un bel dibattito col pubblico dopo tanti mesi in cui non abbiamo potuto partecipare a iniziative di questo tipo. Quanti sono i titoli? Oltre questo abbiamo 2 documentari d'arte, uno dalla parte del naufragio su Emilio Vedova, che la Fondazione Vedova, che si è formata appunto dopo la morte di Emilio Vedova, ci ha concesso di proiettare in anteprima, non mi risulta sia stato proiettato, almeno in Abruzzo sicuro no. L'altro, e questo sarà giovedì prossimo, il 17, e poi l'altro di arte è Con Pietras e Preparando il Bosco, 2 documentari di arte contemporanea, il 15 di ottobre. Invece in concorso, oltre Vulnerabile bellezza, abbiamo Normal di Adele Tulli, che sarà giovedì 24, e qui Adele Tulli non sappiamo se può intervenire perché lei non è proprio nelle vicinanze, quindi ha un po' di difficoltà a muoversi. Poi avremo il 1 ottobre Wrest Club, L'amore combattuto di Cristiano Di Felice, che è un documentarista proprio di Pescara. Il documentario ha girato tanti festival, ha avuto un grande successo, è la storia di questi 2 ragazzi che praticano il wrestling, sono una ragazza e un ragazzo che vivono insieme e insieme si discono in questa arte marziale. Poi abbiamo l'ultimo, giovedì 8, Come stanno i ragazzi, di Alessandro Tosato e Andrea Battistuzzi, che sono 2 documentaristi proprio di Bergamo, e quindi gli abbiamo chiesto se a noi faceva piacere, ovviamente, se qualcuno di loro poteva, e speriamo che Andrea Battistuzzi possa essere presente. Lui ci ha detto di sì, sperando che a ottobre sia tutto a posto nel miglior modo possibile. Dovrebbe appunto esserci il dibattito con lui dopo il documentario. Volevo dire una cosa in particolare: questo documentario è di una tematica sociale molto sentita, di questi giovani adolescenti e giovanissimi che purtroppo tentano il suicidio, e quindi c'è stato proprio uno studio insieme a degli psicologi per realizzare poi questo documentario. Quindi il dibattito sarà sicuramente particolarmente interessante. Quindi questo è il programma, e poi la premiazione il 17 avremo Stefano Consiglio, che è un documentarista che fa proprio la storia del documentario italiano, penso che non ci sia niente da aggiungere perché si è conosciuto, e presenta questo, uno dei suoi ultimi, Mi chiamo Stan e faccio vignette, che è proprio sul Vigne Quistastan, è anche particolarmente leggero, divertente, oltre che a illustrarci un po' l'arte di Alpan. Quindi questo è il programma. Ci lasci tutti i riferimenti internet per seguire il programma? Il nostro sito www.webacma.it, che ospita tutte le proiezioni, ci sono le date, c'è tutto. Poi c'è anche la pagina Facebook, basta scrivere Associazione ACMA e compare la pagina Facebook. E anche lì l'aggiorniamo e dice anche se ci sono poi delle pagine di volta in volta sui vari documentari che proiettiamo. Quindi è facile trovare informazioni. DocuD, concorso di cinema documentario a Pescara, Museo Vittoria Colonna, dal 10 settembre al 17 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento a Chiara Manni di ACMA, Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese, che organizza. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, grazie. Un abbraccio anche a te e un saluto a tutti. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.